e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Buona giornata a tutti da Deborah Rosciani. Molta nebbia, poca pioggia, niente neve. La qualità dell'aria peggiora così a Milano, a Torino, a Pordenone. Sono scattate le misure d'emergenza dopo il superamento per 10 giorni consecutivi della soglia massima di polveri sottili. Ma se al nord la situazione non è per niente incoraggiante, a dover fare i conti con l'inquinamento c'è anche Roma. Oggi, allora, lo avrete capito, parliamo di inquinamento, una parola che fa paura, pensate a quello che sta succedendo in Cina, che attiva subito una sensazione di impotenza. Leggendo i titoli allarmistici dei giornali vorremmo non uscire più di casa, ma ecco la sorpresa: l'aria di casa poi non è che sia certo migliore. Allora cosa facciamo? Giriamo pure nella nostra abitazione con la mascherina o andiamo a vivere in un bosco? Ci rassegniamo a quel che sarà, perché è il prezzo che dobbiamo pagare per lo sviluppo? 800 24 00 24, il numero verde a vostra disposizione. Per commentare questo argomento con noi ci sarà un professore, un esperto di malattie dell'apparato respiratorio, ma soprattutto il numero verde per voi per raccontarci che aria tira a casa vostra e anche per dirci quali strategie attuate per combattere l'inquinamento. Ne parleremo nella prima puntata di oggi. Nella seconda parte, per la pagina di denari, torniamo a parlare invece di metodi di pagamento elettronici. Continua a far parlare di sé, lo sapete bene, l'emendamento inserito in legge di stabilità, ne abbiamo parlato esattamente venerdì scorso, che prevede l'obbligo per i commercianti di accettare anche i pagamenti con carte e bancomat anche per importi inferiori ai 30 euro. E allora, mentre appunto si continua a parlare di questo, è entrata in vigore mercoledì, 2 giorni fa, ma se ne è parlato molto meno, la nuova normativa europea sulle commissioni interbancarie per bancomat e carte di credito. La norma impone un tetto unico, si applicherà ai circuiti Visa, Mastercard e Pago Bancomat, mentre saranno esclusi i circuiti American Express e Diners. La novità arriva anche in Italia, con l'obiettivo di incentivare l'utilizzo della moneta elettronica anche per piccoli pagamenti. E allora cosa implica, come si intreccia questa notizia con le altre di cui abbiamo tanto parlato? 800 24 00 24, voi tornate a raccontarci se usate bancomat e carta, quando, in quali casi invece continuate a preferire il contante, naturalmente perché in Italia insomma non si fa grandissimo uso come in altre aree economiche del mondo appunto dello strumento elettronico di pagamento, ma insomma avete cambiato idea di recente, che cosa vi ha mossi in una nuova modalità di utilizzo appunto degli strumenti di pagamento? Ne parleremo dopo le 11. Se è vero che siamo quello che mangiamo, come Nicoletta ci insegna sempre, siamo anche quello che respiriamo. Le città stanno diventando davvero delle camere a gas, ma anche le nostre case non sono a meno rischio, non crediate. Oggi allora parliamo di inquinamento, di smog, di polveri. Se siete animali metropolitani, se avete bambini piccoli oppure appartenete a categorie a rischio, soffrite d'asma, siete cardiopatici, 800 24 0024 per intervenire in diretta questa mattina. Ma restate con noi anche per cercare di capire che cosa di concreto può essere fatto. In linea con noi abbiamo il professor Pierluigi Paggiaro, professore di malattie dell'apparato respiratorio, Dipartimento cardiotoracico e vascolare all'Università di Pisa, per la diretta di stamattina. Professor Paggiaro, buongiorno e grazie. Ci sente? Eccoci. Ascoltatori, siamo qua. Eccoci qua, grazie molte per la sua disponibilità. Lei è a Pisa in questo momento? Sì, esattamente. E lì l'aria, lì che aria tira, ecco. C'è un bel sole, un bel sole. Pisa per fortuna ha un livello di inquinamento piuttosto moderato per la situazione geografica, ventilata, c'è il mare vicino. Il traffico è purtroppo concentrato in alcune strade e lì qualche problema c'è. Allora, l'inquinamento è un tema di cui abbiamo già parlato nei giorni scorsi, perché è uscito un rapporto dell'Agenzia Europea dell'Ambiente che ha dato all'Italia un triste primato. Fra i 28 paesi dell'Unione Europea, l'Italia è quello con il più alto numero di morti premature rispetto alla normale aspettativa di vita a causa proprio dell'inquinamento dell'aria. E allora sentiamo, professor Paggiaro, io la invito ad ascoltare con noi, se anche questo. Lo stato di salute delle nostre città è uno dei temi che viene affrontato in questi giorni a Parigi, a COP21, la conferenza mondiale sul clima, chiamata al raggiungimento di un accordo globale che rallenti almeno il riscaldamento del pianeta causato dalle emissioni di gas serra. Quale relazione c'è fra questo tema e quello di cui parliamo noi oggi? Vediamo se questa relazione ce la stabilisce la nostra inviata a Parigi, Laura Bettini, che salutiamo. Laura, buongiorno. A che punto sono i lavori in questo momento? Buongiorno. I lavori continuano e proseguono. Sappiamo che tutto è stato rinviato a domani perché non è facile trovare questo accordo. Insomma, sembrava cosa fatta per oggi pomeriggio e invece è arrivato l'annuncio, tutto rinviato a domani. Qual è la relazione con l'inquinamento delle nostre città? Beh, ce n'è una che hai già in pratica messo sul piatto tu, che è quella del riscaldamento del pianeta. Il riscaldamento del pianeta provoca anche dei cambiamenti climatici nelle nostre città, nelle nostre regioni, ma non solo nelle nostre, ovviamente in tutto il mondo, per cui abbiamo gli inverni e degli autunni, soprattutto ad esempio in cui piove poco e niente, e questo ci crea quel problema di accumulo, no, di inquinanti nell'aria. Ovviamente ce n'è anche un altro, che è quello delle emissioni che noi produciamo soprattutto dalle fonti fossili, carbone e petrolio, che servono per le nostre auto, per i nostri riscaldamenti, per fare energia. Questo provoca un inquinamento anche atmosferico. Quindi insomma, quello che succede qui a Parigi ci dovrebbe interessare moltissimo e dovremmo tutti sperare che le cose andassero per il meglio, cioè che si trovasse un accordo che punta a una tenere basso il riscaldamento del pianeta, ma soprattutto che vada anche a incidere sulle emissioni e sulle fonti di emissione di CO2, che poi hanno una serie di ricadute, certo, sia sul clima sia sull'inquinamento atmosferico. Certamente, è un tema molto interessante, anche perché chiaramente i paesi in via di sviluppo hanno voluto far sentire la loro voce in questo consesso, è naturale che vanno ascoltati anche loro, per cui grazie Laura, torneremo a collegarci con te nel corso dei prossimi giornali radio, appunto, e soprattutto domani il grande focus sarà sull'intesa che presumibilmente appunto verrà raggiunta e comunicata da Parigi. Grazie a Laura Bettini. Intanto, professor Paggiaro, torno da lei. Allora, ritorniamo a questo rapporto da cui siamo partiti, questo dell'Agenzia Europea che dà questo triste primato all'Italia, lo ribadisco perché avesse perso due minuti fa questa notizia. Fra i 28 paesi dell'Unione Europea l'Italia è quello con il più alto numero di morti premature rispetto alla normale aspettativa di vita, proprio a causa dell'inquinamento dell'aria. Fra gli agenti killer responsabili del record negativo ci sono le micropolveri sottili, il biossido di azoto e l'ozono, quello presente nei bassi strati dell'atmosfera. Tre termini che sentiamo dire, di cui leggiamo tanto, professor Paggiaro, ma esattamente cosa significano, come impattano sulla nostra salute? Beh, sono i componenti più importanti dell'inquinamento atmosferico. Le polveri sottili, per le loro dimensioni, sono capaci di raggiungere le parti più profonde dell'apparato respiratorio e da lì addirittura andare in circolo e quindi creare danni anche ad altri organi. Pensiamo agli effetti cardiovascolari dell'inquinamento. Queste polveri contengono prodotti di combustione, prodotti potenzialmente cancerogeni, sostanze sicuramente nocive per l'organismo. L'altro componente sono i gas. I gas, in particolare gli ossidi di azoto, combustione dei riscaldamenti, dei prodotti industriali, eccetera, e più che altro l'ozono. Il cambiamento climatico che sta formando negli ultimi anni a causa del cambiamenti, diciamo, del clima generale, incrementano sempre di più la quantità di ozono a livelli nostri, dove respiriamo noi. Questo non è ozono buono, questo è ozono che danneggia le vie respiratorie, che infiamma i bronchi e quindi è responsabile di danni polmonari importanti. Certo, ma li abbiamo denominati, professor Paggiaro, agenti killer. Sì. Quanto deve durare il contatto, l'esposizione con questi killer, appunto, per provocare dei danni nell'organismo? Allora, bisogna distinguere quello che è l'esposizione a queste sostanze nel causare una malattia, tipo l'asma, tipo la bronchite cronica o l'enfisema, e allora lì ci vogliono esposizioni ripetute e prolungate per anni. Quando invece parliamo di persone che hanno già, magari anche per altri motivi, sviluppato la malattia respiratoria, l'asma, la bronchite cronica, l'enfisema, bastano esposizioni anche brevi, magari a concentrazioni un po' al di sopra di quelle medie, per causare dei sintomi acuti. Mm-hmm. c'è una relazione molto stretta fra i picchi di inquinamento atmosferico monitorati nelle nostre città e per esempio gli accessi al pronto soccorso per crisi asmatiche, i ricoveri in ospedale per riacutizzazioni della bronchite cronica e dell'enfisema e addirittura per eventi cardiovascolari. Quindi in qualche modo chi è più suscettibile veramente può avere guai grossi quando si espone anche per poco tempo, infatti, parliamo di poche ore, a livelli di concentrazioni elevate di questi agenti. Professor Paggiaro, le nostre riflessioni hanno scatenato un grandissimo interesse da parte degli ascoltatori e come era facile naturalmente prevedere, io direi di dare subito la parola all'800240024 alle riflessioni dei nostri amici che ci seguono da casa, che sono molto attenti alla qualità dell'ambiente. Alex da Bergamo, ed Alex che arriva il primo contributo di oggi. Buongiorno Alex, benvenuto e buona giornata. Buongiorno. Sì, sono di Seregno, non di Bergamo. Sarei dovuto essere a Bergamo circa 20 minuti fa e avevo deciso di prendere il treno per comodità e anche perché chiaramente sarebbe costato meno a me e all'ambiente. La verità è che sono fermo su una piazzola della 4 perché il treno non è mai partito ed è una cosa abbastanza comune. Quindi ha dovuto fare marcia indietro e prendere l'auto? Esattamente, esattamente. E lei dice, hai voglia ad avere a cuore i problemi dell'ambiente, della mia qualità di vita, anche perché magari lei in treno avrebbe in una mezz'oretta di viaggio, non so quanto sarebbe durato il suo percorso, avrebbe fatto anche dell'altro, per cui forse anche la qualità della sua vita ne avrebbe risentito positivamente, ma insomma, come dire, assolutamente, il contesto non ci aiuta, dice lei. No, quindi bisogna lavorare su l'affidabilità dei mezzi pubblici, certo, se vogliamo limitare davvero l'uso dell'auto. Parole sante, Alex, la ringrazio. Peraltro, grazie. Tornando proprio alla situazione di questi giorni, le amministrazioni comunali stanno tentando di prendere tutte le precauzioni del caso. Citiamo ad esempio la situazione di Torino, dei comuni del circondario che ieri e oggi hanno lanciato l'iniziativa Lascia l'auto, viaggia gratis, che prevede metropolitana, bus e tram gratis per tutti. Milano ha lanciato le prime misure anti-smog della stagione. Ovviamente noi non possiamo intervenire su questo, ma nello spirito di Cuore Denari cerchiamo anche oggi di dare dei suggerimenti e piccoli accorgimenti che potrebbero metterci un po' al riparo da questa situazione. Adesso il professor Paggiaro sente il traffico con noi, sentiamo cosa succede sulle strade italiane, poi andremo di nuovo al profilo magari di chi sta rischiando di più alla luce di queste condizioni climatiche di questi giorni e quali sono i segnali a cui prestare attenzione per capire se lo smog, le condizioni climatiche per l'appunto, ci stanno un po' minando anche le nostre condizioni di salute, magari inconsapevolmente. A tra poco. Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. Vi presenta. Cuore e denari. In qualche città questa respirazione diventa un po' più affannosa perché la qualità dell'aria non è che sia il massimo. Siamo ritornati insieme nella prima parte del nostro programma, stiamo parlando di inquinamento e lo facciamo perché le notizie di questi ultimi giorni hanno sottolineato in molte città italiane una situazione non buona. Abbiamo citato Milano, Torino, ma anche Roma nei giorni passati, Pordenone ed altro ancora. A Pisa si sta benino, ci raccontava il nostro ospite di stamattina, il professor Pierluigi Paggiaro, professore di malattie dell'apparato respiratorio, dipartimento cardiotoracico e vascolare all'Università di Pisa. Allora, professor Paggiaro, dicevamo i segnali a cui dobbiamo prestare attenzione, ammettendo appunto che le condizioni climatiche stiano minando la nostra salute, ma nella nostra totale inconsapevolezza, che cosa dobbiamo fare attenzione? Beh, bisogna fare attenzione anche a minimi disturbi che possono essere un po' i segnali iniziali di qualche problema respiratorio. Episodi prolungati di tosse che non si risolvono in pochi giorni, limitazioni nell'attività quotidiana a causa un po' di sensazioni di mancanza di respiro, sono cose che magari qualche volta la gente tende a trascurare pensando che siano normali, magari siamo poco allenati a fare attività fisica, invece sono segnali importanti che devono portare all'attenzione del medico. In particolare vorrei dire chi ha già una malattia riconosciuta, chi ha l'asma, chi ha la bronchite cronica o l'enfisema, è un soggetto che veramente deve avere qualche attenzione nell'esporsi a a fattori inquinanti che possono indubbiamente aggravare la condizione. Mm-hmm. Verrebbe da pensare, professor Paggiaro, che sarebbe meglio stare in casa. In realtà, dal nostro preambolo iniziale, abbiamo capito che anche qui le cose non è che vadano sempre meglio, soprattutto se si vive con un fumatore. In quali altre condizioni, invece, la condizione domestica non è quella più appropriata dal punto di vista climatico? Beh, intanto bisogna fare attenzione un pochettino alle fonti di inquinamento casalinghe. Ora con il tipo di riscaldamenti che abbiamo noi in generale o col tipo di combustibile che usiamo per la cucina, questi rischi sono molto ridotti, ma le famose bombole del gas, quelle sono rischiose perché liberano anche quantità di ossidi di azoto che sono nocivi. Poi ovviamente gli ambienti confinanti possono avere il rischio di scarsa ventilazione, quindi di concentrazione magari non so di sostanze che possono causare l'allergia, penso a muri umidi, a muffe e così via. E poi più che altro l'aria molto secca, riscaldamento eccessivo, scarsa umidità negli ambienti ovviamente è un fattore irritante per le vie respiratorie. No, stavo pensando, professor Paggiaro, che a me piace proprio invece l'ambiente molto caldo della casa e so che non è in realtà l'ideale per la nostra salute. È vero che si gonfiano anche gli occhi, adesso magari lei è un esperto dei polmoni più che altro, però il gonfiore degli occhi è determinato anche da un eccesso di caldo nell'abitazione? Certo. Tutti questi fattori climatici, in particolare temperatura troppo elevata e la scarsa umidità, e anche qualche sostanza che può liberarsi dai normali componenti della nostra casa, le vernici usate per le pareti, eccetera, sono fattori irritanti. C'è una malattia ben descritta, che è la malattia degli ambienti confinati, che causa irritazione un po' a tutte le parti del nostro organismo che sono esposte, quindi anche agli occhi. 800 24 00 24, raccontateci dove vivete, qual è la qualità dell'aria che respirate secondo la vostra percezione. E allora noi così abbiamo un'idea forse un po' superficiale della situazione delle città italiane, immaginiamo che quelle più grandi, quelle dove si circola di più con l'auto, siano ovviamente più inquinate, magari le località un po' più al sud Italia dove c'è tanto sole, forse si circola meno con l'auto, insomma noi immaginiamo che si stia un po' meglio. Gaetano da Barletta non è d'accordo, perché invece dice di vivere, Gaetano, nella seconda città più inquinata della Puglia. Barletta ha questo primato? Senta, secondo i dati, adesso non so se ufficiali o meno, comunque diciamo noi viviamo una situazione veramente molto grave, tra l'altro anche i comitati spontanei che si sono creati non hanno voce presso le istituzioni, perché non so perché, o perlomeno noi pensiamo siano le solite. Non c'è sufficiente sensibilità, lei dice, insomma, dal pubblico rispetto alle vostre lamentele, istanze e quant'altro, sì. Gaetano. Sì, ci sono due fabbriche a Barletta che sicuramente non ci fanno del bene. Una è una fabbrica di concimi chimici ed è una fabbrica francese. Presumo che riescano a lavorare, a fare tale lavorazione solo da noi, perché evidentemente i controlli non sono poi così, diciamo, pressanti, non si adeguano probabilmente perché nessuno va a sollecitare, anche se so che la magistratura ha fatto... Sì, Gaetano, adesso stiamo un pochino uscendo dal seminato, ho capito la sua considerazione, detto è anche questo che smantellare poi completamente aziende che magari impiegano anche molti lavoratori non sono cose che si possono fare da un giorno all'altro, su tante altre grandi aziende italiane l'abbiamo visto. Il tema è che lei tiene la sua salute e quella dei suoi figli. Che cosa fa per proteggersi da questa situazione, naturalmente, oltre a vigilare anche su quello che accade nella sua città? Barichiamo in casa, non c'è altro modo, perché l'aria è veramente pessima, sia dal punto di vista dell'odore e anche dal fatto che comunque c'è un'altra azienda invece che brucia plastica e quindi non so se si chiami termovalorizzatore, sì. Insomma brucia plastica e quindi siamo sicuramente a livelli di PM10 e PM2.5, quelli che il professore prima citava, sì, elevati. Grazie Gaetano. Professor Paggiaro, barricarsi in casa, eppure avendo anche dei bambini, non è che sia la soluzione ideale, no? Proteggersi va bene, difendersi addirittura issando delle barricate in questa maniera mi sembra anche un po' esagerato, ma soprattutto per il nostro ascoltatore che naturalmente ha tutto il diritto poi di poter uscire e fare quello che vuole. Intanto, per esempio, un paio di volte l'anno farsi una, possibilmente potendola fare chiaramente, una bella vacanza in un posto dove si respira meglio ci dà l'opportunità di ripulirci un pochino, oppure non è sufficiente? Oddio, 2 o 3 settimane all'anno di aria pulita non compensano tutti gli altri periodi in cui siamo continuamente esposti. No, certo, barricarsi in casa non è la soluzione, non soltanto perché la casa a talora non è nemmeno quello, esatto, un ambiente climaticamente e diciamo perfetto, ma poi limita la vita quotidiana, e invece l'attività fisica è una cosa importante che agisce su tutte le malattie croniche che uno può avere, e comunque è un fattore di prevenzione per la comparsa delle malattie. Quindi non va fatto questo. È ovvio, bisogna evitare di scegliere i momenti particolarmente a rischio. Chi viaggia in auto sa, lunghe code, gallerie, motori accesi, ecco, tutte queste cose sono condizioni che indubbiamente, potendole in qualche modo prevedere, si dovrebbero cercare, certo, di evitare, mm-hmm, però non dobbiamo nasconderci dietro un dito e evitare qualsiasi cosa. Mm-hmm. Quello che eviterei è, per esempio, non so, chi piace, chi ama fare attività fisica, la corsa libera, non mi metterei a fare la corsa sulla tangenziale di Milano o su altre strade ad alto traffico. Ecco, bisogna trovare un po' anche le condizioni l'area verde, migliori, esatto, se per ce ne sono, poter svolgere la giusta attività fisica. Professor Paggiaro, abbiamo un minuto prima di salutarci. Sì. Abbiamo sentito prima Alex da Bergamo che voleva prendere il treno stamattina per tutte le problematiche che ci ha raccontato. Ha dovuto prendere invece l'auto per il suo spostamento. L'abitacolo di un'automobile è un posto sicuro per i nostri polmoni? Non proprio, non proprio, specialmente nell'inverno quando teniamo il riscaldamento, quella è aria secca che sicuramente è un fattore irritante importante, e molte volte chi ha già disturbi respiratori, quell'ambiente lì è responsabile del peggioramento dei suoi sintomi. Quindi quando è possibile, diciamo, cercare di tenere una temperatura appropriata, un po' di freddino è meglio che tanto caldo secco, e cercare di ventilare il più possibile l'ambiente. Non sarei proprio tanto una sua paziente ideale, professor Paggiaro, sono un po', come dire, indisciplinata su questo tema, ma io sono una che soffre il freddo, che cosa deve fare? Quindi anche in auto carico un po', vabbè, devo farmi una chiacchierata in privato con lei. Grazie molte per essere stato con noi, per la sua chiarezza e anche il suo incoraggiamento, speriamo di poter vivere bene le nostre città. Noi ci fermiamo, adesso abbiamo il giornale radio, vedo già Dario Ceccarelli che scalpita, siamo pronti, poi ritorniamo subito. Che sia un Natale emozionante, che fa storia. Beh, un Natale di cuore. E perché no? Anche di denari. Che questo sia un Natale di speranza, che dopo arrivi anche la Befana. Un Natale da raccontare. Radio 24. La passione si sente anche a Natale. Cuore e denari. Italia sì, Italia no, Italia pum. La strage è impunita. Puoi dir di sì, puoi dir di no, ma questa è la vita. Contante sì, contante no, potremmo dirla così, oppure carta sì, carta no. L'Italia sembra ancora molto indecisa in materia di pagamenti elettronici. Noi oggi torniamo a parlarne in questa seconda parte di Cuore e Denari. Vi do subito la parola. 800 24 00 24, raccontateci al numero verde o anche con un sms o anche su WhatsApp al 349 238 6666. Carte sì, carte no, e perché siete resti a usare i pagamenti elettronici? Cosa vi convincerebbe a cambiare idea? O se l'avete già fatto, cosa vi ha convinto a cambiarla? Ma raccontateci la vostra posizione, anche se siete degli esercenti, anzi soprattutto se siete degli esercenti, che sono naturalmente i grandi protagonisti anche del dibattito dell'ultimo periodo, perché si trovano a far pagare i propri clienti appunto con le carte, qualche volta storcendo un po' il naso. Noi li mettiamo un po' spesso in croce, dobbiamo dirlo, ma è anche vero che gli oneri che sono applicati appunto alle transazioni elettroniche per il mondo del commercio sono davvero alti. Vi leggo subito cosa ci scrivono ascoltatore che non si firma. Incassare 70 euro con la carta di credito mi è costato 6,70 euro, praticamente quasi il 10%. Da allora accetto solo Bancomat, sarà anche colpa della mia banca, ma non sono qui a far beneficenza, che le devo dire. Ha ragione. Intanto continua a far parlare di sé l'emendamento inserito in legge di stabilità che prevede l'obbligo per i commercianti di accettare anche i pagamenti con carte Bancomat sotto i 30 euro, ma mentre continua a far parlare di sé questo provvedimento, questo emendamento, è entrata in vigore mercoledì scorso, e quindi proprio due giorni fa, passando un po' in sordina, la nuova normativa europea sulle commissioni interbancarie per bancomat e carta di credito. La norma impone un tetto unico, si applicherà ai circuiti Visa, Mastercard, Pago Bancomat, mentre saranno esclusi i circuiti American Express e Diners. La novità arriva in Italia con l'obiettivo di incentivare l'utilizzo della moneta elettronica anche per piccoli pagamenti. Allora è un'occasione per noi per rifare un punto complessivo della situazione su questo argomento, che abbiamo trattato appena una settimana fa. Avevamo sentito le opinioni del mondo del commercio, ma intanto che cosa implica la novità delle nuove commissioni bancarie? Saranno o no di incentivo anche per i consumatori? Perché a parte il mondo del commercio, anche gli italiani non è che siano sempre tanto favorevoli all'uso di bancomat o carta. Lamentano il fatto che, utilizzando lo strumento elettronico di pagamento, non riescono proprio a tenere sotto controllo le proprie spese. Quindi qui abbiamo anche un'implicazione di carattere culturale della quale abbiamo parlato tante volte. Nicola Forte, consulente tributario, esperto per il Sole 24 ore, intanto buongiorno. Buongiorno, buongiorno a Deborah, buongiorno agli ascoltatori. E buongiorno e grazie di essere con noi a Davide Stefanini, direttore generale di Visa Europe in Italia. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a tutti, grazie. 800 24 00 24, ribadisco il numero verde a disposizione dei nostri ascoltatori, perché questo è un tema che scatena sempre le telefonate. Commissioni più contenute vi incentiveranno ad utilizzare carta o bancomat, oppure le ragioni per cui non le utilizzate sono altre? Difficoltà a gestirla, paura delle clonazioni, problemi a quantificare le spese che sostenete con la carta, insomma le tematiche sono tante. Sì, non riesco a capire neanche io da dove arrivi questa interferenza, non so se sono i nostri due ospiti che hanno un cellulare attaccato al telefono, magari chiediamo loro gentilmente di spostarlo, ma magari è anche colpa nostra, Carmelo, non ce ne siamo. Io non ce l'ho il cellulare qua, per cui non sono io. Detto questo, dottor Stefanini, vengo subito a lei. In tutto questo gran parlare dell'emendamento sull'obbligo per i commercianti è passata un pochino in secondo piano, diciamo, la notizia delle nuove commissioni che interessa direttamente voi. Ci spiega esattamente i termini di questa notizia? Chi e come ha ridefinito i limiti sulle commissioni per i pagamenti con carte di credito e bancomat? Tra l'altro do anche le percentuali. Nel primo caso la commissione per un pagamento con carta di credito non potrà superare lo 0,3% dell'importo, immagino, dell'intera transazione. Nel caso di un pagamento con bancomat, la commissione non potrà superare lo 0,2%. Di quali commissioni esattamente stiamo parlando? Certo, ma direi che sicuramente proprio lo scorso mercoledì si è verificata una situazione epocale nell'ambito dei sistemi di pagamento, perché la Commissione europea ha stabilito questi tetti che lei ha appena citato, per lo 0,3 per il credito e 0,2 per il debito, a quelle commissioni che le banche si pagano fra di loro quando, ecco, interviene un pagamento. Quindi commissioni interbancarie. Questo è un aspetto molto importante, perché non sono da confondere con le commissioni che invece l'esercente che ha il POS normalmente paga alla propria banca. È vero anche che le due cose sono abbastanza correlate, legate, certo. Per cui è chiaro che tanto più alte sono con le commissioni interbancarie, tanto più questo alto costo si riflette sulle commissioni applicate all'esercente. Di conseguenza, se queste diminuiscono adesso. Ecco. Esatto, che a questo punto cada uno dei grossi alibi che in questo momento il nostro paese sconta quando si parla di sistemi di pagamento, che è dovuto al fatto che le commissioni pagate all'esercente erano o sono particolarmente alte. Credo che questo dovrebbe cambiare drasticamente. Mm-hmm. Senta, dottor Stefanini, abbiamo letto che questa norma, che impone appunto questo tetto unico, si applicherà a tre circuiti, al vostro, Visa, a Mastercard e a Pagomancomat. Perché non a tutti? Proprio perché questi tre circuiti operano attraverso le banche, quindi esiste questa commissione interbancaria. Nel caso di American Express e Diners, invece, questi sono circuiti che operano direttamente e quindi non esiste l'elemento da normare nel loro caso, non esiste questa commissione interbancaria perché le banche non sono presenti. La novità è immediatamente operativa? Assolutamente, dal 9 dicembre è operativa, quindi noi come Visa abbiamo adeguato i nostri sistemi, abbiamo anche pubblicato queste nuove commissioni interbancarie, tutti, sia i consumatori che gli esercenti, possono consultarle. A questo punto queste nuove commissioni interbancarie dovrebbero essere la base di un ricalcolo delle commissioni per gli esercenti che ogni banca dovrà fare autonomamente. No, tra l'altro mi colpisce anche le modalità di applicazione del provvedimento. Arriva una direttiva europea, ma in questo caso non c'è stato bisogno di un provvedimento italiano che recepisse questa misura? Dottor Stefanini, le faccio fare anche magari un lavoro che non è il suo, ma questa è una curiosità che mi stava sorgendo, forse adesso vado anche a forte, magari anche lui un'interpretazione su questo. Diciamo che in assenza di un recepimento domestico diverso da quello europeo, si applica quello europeo. Ecco. C'è stato un diverso un'interpretazione locale, quindi si è andati direttamente alla norma europea. Certo. Nicola Forte, un giudizio di carattere generale su questo tema, commissioni più basse, interbancarie, per esso, di conseguenza noi ci aspettiamo anche una ricaduta diretta a breve anche fra i consumatori, quindi nel rapporto diretto fra commercianti e consumatori, appunto, commissioni più basse, secondo lei uguale a uso più diffuso delle carte? I costi sono un aspetto importante, lo abbiamo visto tante volte affrontando questo argomento dai nostri microfoni. Sicuramente i costi sono un aspetto importante, anche il profilo psicologico, quindi avere contezza, notizia che ci sarà, anzi c'è, è già in vigore la norma, una diminuzione dei costi può incentivare. C'è una preoccupazione di fondo, però, che non è legata solo a questo profilo della diminuzione delle commissioni interbancarie, ma quando in un'azienda interviene, in questo caso, una direttiva che determina una diminuzione dei ricavi e quindi dei guadagni, c'è il timore, poi dovremo vedere come, se è infondato, che questa azienda possa intervenire su altre voci di bilancio per incrementare i suoi ricavi e quindi poi ribaltare quella che è la diminuzione di guadagno per effetto della diminuzione delle commissioni interbancarie. Adesso forse è una preoccupazione eccessiva per le spese di tenuta del conto corrente, ormai qui forse c'è maggiore chiarezza, ma che in qualche modo o l'utilizzatore della carta o il commerciante possa subire sotto altre forme un aggravio di costi e poi a sua volta ribaltarlo sul consumatore, a mio modo di vedere è fondato. Ecco, dovrebbe essere gestita con assoluta chiarezza anche questa fase. E secondo lei su che cosa dovremo vigilare allora prossimamente? Come ci accorgeremo che è avvenuta questa rimodulazione delle commissioni interbancarie come consumatori, secondo lei? Che tipo di impatto potremmo verificare? In generale un consiglio pratico è di non lasciare tutti i documenti che per trasparenza mi vengono comunque inviati. In generale, spesso so, questo anche per esperienza diretta, che ormai non dico l'estratto conto non si guardi più, ma si debba fare un po' più di attenzione appunto ai costi, ai costi di liquidazione periodica, anche ai costi di gestione delle casse di credito, ma in generale di tutti gli strumenti di pagamento. Quindi attenzione a ciò che riceve, guardarlo con attenzione. Certo, dottor Stefanini, allora vedo che questa novità sta interessando molti ascoltatori proprio perché, come ho precisato anche all'inizio, negli ultimi tempi noi abbiamo parlato di altro, delle iniziative che il governo prende per sostenere, per continuare appunto a fare questa lotta contro l'utilizzo del contante, che poi significa in Italia anche lotta all'evasione fiscale, e appunto dicevo questa rimodulazione delle commissioni interbancarie era passata un pochino sotto traccia, ma adesso invece dovremmo essere molto ben informati anche su questo per verificare se anche come utenti finali della transazione elettronica appunto potremmo risparmiare qualcosa e soprattutto se per i commercianti arriveranno dei benefici. Ci può aiutare con un esempio pratico a capire le ricadute sul commercio per un totale medio di operazioni? Quanto pagavano fino ad ora e quanto potranno pagare da qui in avanti? Ma è abbastanza difficile fare casi puntuali, però dobbiamo dire che noi a livello europeo come Visa abbiamo stimato un guadagno complessivo dal tutto il comparto di esercenti, diciamo così, che vende attraverso queste nuove norme di circa 6 miliardi di euro all'anno. Questo complessivamente a livello europeo per tutti gli esercenti, gli operatori economici. Questo è un risparmio significativo, si parla comunque si parla di rimodulare le commissioni che gli esercenti pagheranno in modo significativo. Se prima di questa norma era normalmente applicata una commissione che andava tra l'1 e il 2%, dopo questa norma sarà possibile pensare nella maggior parte dei casi a commissioni che possono andare anche sotto l'1%, quindi capisce che è una riduzione consistente. E non c'è da dimenticare il fatto che, molto invece dimenticano, che il contante ha dei costi. Non è vero che incassare una transazione in contante sia gratis, perché il contante deve essere contato, deve essere depositato, ci si perde tempo, è falso, eccetera. Per cui la comparazione dell'ipotetico 1% con il costo del contante non è 1% rispetto a zero, ma è 1% rispetto ad una quota che noi abbiamo calcolato essere il costo del contante, che non è lontano da questa cifra. È un tema che è molto caro anche ai commercianti, effettivamente, perché spesso li accusiamo di essere quella categoria particolarmente resistente al cambiamento, di non voler accettare la moneta elettronica di pagamento per piccoli importi, perché naturalmente magari tanti importi, piccole transazioni vengono pagate senza il rilascio dello scontrino. Insomma, c'è tutto un pregiudizio che si ha attorno a questa categoria professionale, ma è anche vero che in realtà molti dicono: se per noi le commissioni fossero più ragionevoli, figuratevi quanto sarebbe più comodo per noi accettare lo strumento elettronico di pagamento ed evitare di tenere tutto il contante nelle nostre casse, che naturalmente ci sono anche delle questioni legate alla sicurezza, alle rapine e a quant'altro che hanno ben presenti. Tra l'altro, questo alibi dovrebbe cadere, nel senso speriamo, che questa situazione non dovrebbe più essere monitoreremo così. Però a parte le commissioni, dottor Stefanini, ci sono anche altre questioni che destano preoccupazione economica, tra virgolette, perché non sono solamente le commissioni sulle singole transazioni che il commerciante sostiene, ci sono anche delle spese sul canone mensile, per esempio, del POS sulla macchinetta che deve essere utilizzata per permettere al consumatore il pagamento elettronico. Ci sono i costi di attivazione, la linea DSL, il canone mensile di un POS può variare dai 10 euro per quelli con linea mobile ai 24 euro di media per gli apparecchi collegati alla linea ADSL. Il costo e il POS non dipende dal circuito della carta di credito, ecco, giusto? Esatto, infatti su questo tema io posso veramente fare pochi commenti, perché non è una cosa che noi controlliamo. Certo. C'è da dire che tanto più transazioni elettroniche si faranno, tanto più si potrà spalmare questo tipo di costo sul numero aumentato di transazioni, e quindi l'incidenza sarà sempre inferiore. Insomma, diamo un altro, tra l'altro forte, vengo a lei, diamo un altro carico alle banche in questi giorni, fra tutte le cose che devono affrontare, magari ecco che si mettano anche un pochino in testa di dover venire un po' incontro al mondo del commercio se vogliono che la moneta elettronica venga sempre di più usata. Il tema commissionale mi pare di capire che deve essere affrontato seriamente, se si vuole far fare un salto di qualità al mondo del commercio e anche ai consumatori che ancora sono tanto affezionati al contante. Nicola Forte. Eccomi, chiedo scusa, non ho sentito bene, c'era un'interferenza. C'era un'interferenza, no? Stavo ragionando sul fatto delle commissioni complessive che il mondo del commercio deve sostenere, appunto, per permettere il pagamento e l'utilizzo della moneta elettronica, ma a parte il costo delle singole transazioni, dicevamo prima, ragionavamo con Stefanini anche del costo del POS, il canone mensile e quant'altro, per cui effettivamente non hanno tutti i torti quando si lamentano. Il sistema bancario tutto dovrebbe proprio rendersi un po' più disponibile a rivedere tutto il sistema commissionale. Assolutamente, anche se poi sotto questo profilo, e dovremmo verificare l'impatto, si stanno affacciando degli strumenti che in qualche modo potrebbero ridurre questi costi fissi. Adesso noi siamo forse un po' indietro, no? Si parla tanto della possibilità di fare pagamenti attraverso messaggi con il telefonino. Chiaramente vado un po' avanti, no? Vado avanti con la fantasia. Sì. Però il tema anche del contactless, che poi vorrei affrontare con Davide Stefanini, perché hanno fatto i signori di Visa un'indagine molto accurata la scorsa estate su quante transazioni con questa novità vengono effettuate in tutta Europa. Sì, forte. Ecco, sì, quindi sotto questo profilo voglio dire ci sono anche la tecnologia dà una mano per la riduzione dei costi. Se in qualche modo questi strumenti saranno effettivamente messi in pista nella maniera giusta, allora voglio dire forse avremo dato una spallata finalmente alle resistenze non solo psicologiche ma giustamente anche esigenze di costi. Peraltro condivido perfettamente quello che appunto abbiamo detto poc'anzi circa il fatto che la gestione del contante ha un costo. Pensiamo che nel nostro sistema abbiamo delle norme, per esempio la norma che obbliga al pagamento di pensioni tramite strumenti tracciabili, è una norma in vigore da qualche anno e che non ha finalità antiriciclaggio, ma proprio ha una finalità di risparmiare e quindi gestire il contante con minori costi, proprio impedendo il pagamento della pensione, chiaramente oltre una determinata soglia di 1000 euro che peraltro rimarrà assolutamente invariata, la pensione deve essere accreditata su un conto corrente o su una carta, proprio perché lo Stato vuole ridurre i costi di gestione del contante. Allora, sono le 11.27, fra un po' devo andare ai mercati finanziari, ma direi che possiamo anche ascoltare le considerazioni di alcuni ascoltatori che vogliono condividere con noi le loro idee sul tema di questa mattina. Federica dalla provincia di Milano, benvenuta. Buongiorno. Buongiorno. Io sono molto restia invece ad usarla la carta di credito. Ah sì, infatti, ma ne abbiamo chiara coscienza di come, la pensate. Allora, negli Stati Uniti me l'hanno clonata, torno in Italia, sono in Sicilia per lavoro, mi prelevano dei soldi, per fortuna è intervenuto il sistema di sicurezza, mi bloccano la carta, quindi io non ho più la carta. E con cosa pago dopo? Sì, vabbè, ma gliela restituiscono credo nel giro di poco. Tanto come lo pago. Certo, Federica, il tema è che se magari le avessero rubato il contante, quello non ha più nessuna possibilità di vederselo restituire in qualche modo, invece c'è tutto un sistema di tutela attorno allo strumento elettronico di pagamento. Stefanini, qua mi può aiutare lei, che in qualche maniera può, con le opportune modalità di denuncia, permettere a Federica di rientrare quantomeno di quello che le è stato trafugato dopo la clonazione, è così? Assolutamente, io credo che la nostra ascoltatrice dovrebbe capire che la carta è un mezzo di tutela nei suoi confronti, più di quanto lo è il contante. Il contante si perde e non si ha più traccia di quella banconota. Mi clonano la carta, sì, posso avere un minimo di disagio problemi, di qualche disagio, giorno, però io non perdo una lira, questo è importantissimo. E poi quello che volevo sottolineare, che comunque deve farci un attimo riflettere, è che tutti questi benefici che la carta danno rispetto al contante sono veri in Italia, sono veri in Germania, sono veri in Svezia, sono veri in Inghilterra. E quindi dovremmo un po' tutti chiederci forse perché in Svezia i cittadini svedesi fanno 70, 80, 90 transazioni al mese con le carte e in Italia ne facciamo 5. Quindi ci deve essere qualcosa di più di queste considerazioni che, ripeto, che sono valide su tutti i paesi europei. Senta, per chi la pensa invece come Federica, magari teme che a seguito di uno smarrimento nel giro, perché poi capita naturalmente, quello che trafuga la carta faccia subito delle spese chiaramente a danno del nostro conto corrente. Secondo lei la raccomandazione da fare a chi vive con un po' di preoccupazione una circostanza possibile di questo tipo? Intanto portarsi dietro tutti i numeri di telefono per poter fare il blocca carte immediatamente, insomma, come possiamo... Assolutamente, direi che sereni. Avere tutti i numeri di telefono a portata di mano per bloccare le carte è un consiglio assolutamente valido. Non mettere mai il PIN con la carta o nello stesso contenitore dove c'è la carta, perché il PIN è il sistema di riconoscimento e di sicurezza legato alla carta. Non andare a fare spese in siti di commercializzazione commercio elettronico non conosciuti, possibilmente non perdere mai il controllo della carta quando per esempio si va al ristorante e si dà la carta a qualcuno che se la porta nel retrobottega. Ecco, questa è una cosa che in certi posti è possibile pensare di fare, in altri meglio non, benissimo, non fare. Allora, intanto quello che possiamo fare è andare a sentire cosa succede oggi in borsa e poi su tutti questi argomenti che vedo che vi stanno scatenando particolarmente stamattina. Ritorniamo nel giro di pochissimi minuti. Cuore e denari. Non le sto chiedendo chissà che cosa, ma voglio dire, inutile mi guarda con questi occhi da cernia. Forse perché mi vuole cernire il codice segreto. È per quello che va un passo avanti, eh? Questo allunga questo collo a brontosauro perché mi vuole cernire il codice segreto. Ecco, allora, visto che avete sentito Aldo Baglio, di Aldo, Giovanni e Giacomo, in questo piccolo contributo che abbiamo scelto per la nostra trasmissione stamattina, vi anticipo già che lunedì saranno con noi, ci sarà con noi appunto Giovanni Storti. Sì, no, c'è Marco che si sta sbracciando, lo so, ma dovevo anche dire che questo era Aldo, quello che aveva parlato, li riconosco benissimo, sono sempre attentissimi i nostri assistenti in studio. Intanto, insomma, cerchiamo di carpire, mi state cercando di carpire il mio codice segreto, è la paura di dimenticare il codice, o la paura che qualcuno ve lo spio, che vi cloni la carta, che non amate, proprio per queste ragioni che non amate i pagamenti elettronici, raccontatecelo all'800 24 00 24. Noi siamo partiti dalla notizia di cronaca di questi giorni, non dall'emendamento che obbliga, contenuto in legge di stabilità, che obbligherebbe i commercianti ad accettare anche la moneta elettronica di pagamento per transazioni di importo inferiore ai 30 euro, ma perché sono state rimodulate anche le commissioni interbancarie. Dall'Europa è arrivata questa norma che impone un tetto unico e si applicherà ai circuiti Visa, Mastercard e Pago Bancomat, e quindi abbiamo ben pensato naturalmente di unire un po' tutti gli argomenti, di raccogliere ancora le vostre considerazioni. Con noi stamattina ci sono Davide Stefanini, direttore generale di Visa Europe in Italia, e Nicola Forte, consulente tributario esperto per il Sole 24 Ore. Leggo ai nostri ospiti i messaggi che stanno arrivando, che hanno ovviamente delle posizioni nettamente contrapposte fra di loro. Un ascoltatore, Carmelo, ci dice: quanto è comodo in Francia prendere un caffè alla macchinetta con la carta di credito, per non parlare poi del parcheggio. Un altro, Fabio da Arezzo, città tanto sotto i riflettori in queste ore purtroppo per altre ragioni, ci racconta: sono super contento all'utilizzo delle carte, servono solamente ad arricchire le banche, tema caldissimo proprio in questa città appunto. Vogliamo togliere l'evasione fiscale, lo scontrino deve essere detraibile, chiaramente riguardante tutte le spese. E poi Paolo: i tempi della transazione con un POS per piccoli importi sono assolutamente significativi rispetto al pagamento in contanti, questo è un aspetto che non andrebbe trascurato. Ma insomma, potrei continuare a lungo perché i commenti sono moltissimi. Ah, questo mi piace, Nicola Forte, lo faccio commentare a lei: pagavo quasi tutto con sistemi elettronici, ma dopo essere stato tracciato su quanto pagavo, sul mio comportamento, cosa e dove spendo i miei soldi, appunto su quanto, cosa e dove spendo i miei soldi, io adesso non li userò mai più. Questo è un tema. Questo è il tema della privacy, no? Perché in effetti c'è questo grande fratello, oramai operatori, imprese, banche, operatori finanziari hanno talmente tanti obblighi di comunicazione dove ormai siamo tutti un po' monitorati. Ma io direi che sotto questo profilo forse la preoccupazione è eccessiva, sì. Non è un problema quanto si spende, il problema è avere la disponibilità a spendere, quindi avere fonti di reddito che non necessariamente debbono essere redditi tassabili, possono essere anche donazioni, ma noi ci preoccupiamo del profilo di tracciare certi movimenti. Ma a parte una questione di sicurezza e di gestire il costo del denaro, ci sono anche delle norme che impongono certi atti. Ad esempio, c'è una norma del Codice Civile che puntualizza le donazioni, ad eccezione di quelle di modico valore, devono essere effettuate per atto pubblico. Quindi se io effettuo un trasferimento di 200.000 euro a favore di un figlio, di un parente, devo fare attenzione, ecco, a tutte queste norme. comunque la preoccupazione secondo me è eccessiva. Esatto, sono tutte cose che avevamo spiegato in tutte le puntate tantissime che abbiamo fatto sul redditometro. Anche questo è un tema che sembra essere un po' passato di moda, invece ogni tanto anche gli ascoltatori con le loro riflessioni lo rispolverano chiaramente. Massimo da Milano, benvenuto. Buongiorno. Ci dica, come la pensa? Ma io trovo che sia un po' fuorviante questa contrapposizione tra chi non vuole assolutamente il denaro elettronico e chi invece la vuole. Perché è fuorviante, sì, ma in realtà è proprio un tema divisivo o bianco o nero. Mi pare che non ci sia nessuno. No, io le leggo i messaggi, cioè non è che. Per carità, strumentalizzo. Io la penso in questo modo. Io trovo che sia una grande opportunità l'uso del denaro elettronico. Oggi con il sistema smart, con i telefonini, si possono fare tantissime cose. Quello che temo tantissimo è la possibilità non solo di essere controllati, ma di essere anche con un click bannati dal sistema. Vuoi perché il direttore di banca ti sei antipatico, vuoi perché non hai il rating giusto per il sistema bancario, vuoi tante cose. Secondo me il denaro deve essere assolutamente salvaguardato, il denaro contante. Certo. Questa qui è un rischio enorme, soprattutto per la povera gente, quelli che non hanno la possibilità di accedere al sistema bancario. Infatti. Per tanti motivi. Ma questo è un motivo anche per cui effettivamente forse non si spinge in maniera esasperata sull'acceleratore appunto del favorire lo strumento elettronico di pagamento, proprio perché sappiamo, Nicola Forte, che c'è ancora una fetta di popolazione un po' indietro su questa evoluzione, rivoluzione chiamiamola così, ma ovviamente in maniera del tutto comprensibile, non è che siamo giudicanti su questo. Nicola Forte, poi sentirei anche Stefanini cosa ne pensa un po' sul proprio profilo dell'italiano su questo tema. Sì, anche dalle telefonate, dai messaggi ci siamo resi conto che ballano e giocano diversi profili, il profilo costi, la preoccupazione di essere controllati su tutto, forse c'è anche un tema, un profilo diciamo culturale. Ecco, io personalmente preferisco utilizzare questi strumenti proprio per non avere la preoccupazione del contante da gestire. Cambiamo di vedere, è superiore rispetto ai benefici, non c'è dubbio. Giovanna dalla provincia di Piacenza è una commerciante. Sì, buongiorno, io sono arrabbiatissima, sì. Molto, perché ok, il contante pone tanti rischi, però se io faccio un incasso oggi con il Bancomat, sì. Io prima di martedì o mercoledì non li ho disponibili sul conto corrente. Anche, quindi anche, c'è anche il tema della valuta, esatto, che passa sempre un po' in secondo piano, forse non abbiamo mai scandagliato a sufficienza. Sì. Esatto, e poi quello che più indigna non sono tanti i costi fissi di queste banco, del Bancomat e quant'altro, ma è la percentuale che la banca si tratta tiene su ogni vendita che io faccio. Più vendo, più il mio importo è alto, più la banca incassa. Che tipo in che settore lavora lei, Giovanna? Perché anche il tema dell'importo è l'importo medio dello scontrino, quindi non è che stiamo parlando anche lì di transazioni che lei fa mirabolanti, cioè magari le farà consistenti, non sarà quel prezzo del caffè il suo scontrino medio, ma neanche quello del televisore, ecco. No, può anche essere di più, perché io faccio tendaggi, se una signora mi viene a ritirare le tende e spende 500 euro, mi paga col banco, sono rilevanti. Per cui il costo della banca è in base a quello che io incasso, per cui è questo che ci indigna, perché è un socio occulto, perché oltre i costi fissi c'è questo anche. Chiaro. Giovanna, volevo grazie. Sì, sì, certo. Qua. Giovanna, la ringrazio, ma guardi, è venuto fuori anche venerdì scorso questo argomento. Peraltro un altro tema che aveva sollevato la rappresentante della Confesercenti che era con noi, facendo riferimento, io le ho chiesto di farci un esempio su che costi sostiene un commerciante, per esempio un barista che fa un sacco di caffè nel corso della giornata. Lei mi diceva, a prescindere dal costo, se tutti i clienti pagassero con la carta di credito tutti quanti i caffè, a prescindere dal costo su ogni singola transazione caricato appunto dalla banca, pensate anche alla fila che si forma alla cassa e che rallenta naturalmente tutto il circuito di pagamento, no? Quindi Davide, Stefanini, effettivamente le implicazioni sono tantissime, saranno anche un po' di resistenze di matrice italiana, però i commercianti non hanno tutti i torti, questo dobbiamo riconoscere. Sì, diciamo che gli ascoltatori hanno sollevato punti che è difficile non dover considerare assolutamente, però ci tenevo a fare qualche precisazione. Certo. Partiamo dalla tracciabilità e dalle considerazioni legate al rischio di essere bannato, un ascoltatore diceva, ma noi dovremmo qui essere sicuramente consapevoli del fatto che per tutto il sistema c'è un beneficio affinché i cittadini usino le carte, quindi non c'è nessuna volontà da parte né delle banche né di altre situazioni di usare appunto l'utilizzo delle carte elettroniche contro di loro. È interesse delle banche che ci si spogli del contante, è interesse della società che si spogli del contante, perché come abbiamo visto in altri paesi europei c'è una stretta correlazione fra l'uso del contante e l'economia sommersa. Quindi se noi riuscissimo in qualche modo a incrementare l'utilizzo degli strumenti elettronici, garantiremmo alla nostra società un livello di economia sommersa, di evasione, di elusione inferiore. Quindi c'è da parte di tutta la società il fatto di facilitare questa cosa. Primo tema. Il secondo magari glielo faccio argomentare dopo di nuovo il collegamento per le notizie dal traffico, però bisogna incentivare, come diceva lei, e non sempre forzare sulle cose per le quali magari il nostro paese non è pronto. L'incentivo fiscale potrebbe essere un'idea, e anche appunto una riduzione generalizzata dei costi, perché mi pare di capire che poi tutto ruoti attorno a quello. Ci fermiamo, traffico, e a tra pochissimo. Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. Vi presenta Cuore e denari. E l'eccitazione che provi quando strisciano la carta e autorizzano il pagamento? Questo non vi fa sentire sicuri di voi e pieni di vita? I Love Shopping, come al solito abbiamo scomodato di nuovo anche questo film per così fare un po' di corredo cinematografico. L'argomento di questa mattina, oltre all'emozione da shopping, talvolta un po' compulsivo, anche voi vi sentite più sicuri usando il bancomat, strisciando la vostra carta di credito? Insomma, così e così, ancora una volta abbiamo capito che la pensate in maniera o bianca o nera, anche se un ascoltatore diceva insomma forse un po' state spingendo anche voi per far prendere queste posizioni nette alle persone. Ma noi in realtà vorremmo fare un dibattito costruttivo questa mattina. Io sono assolutamente per lo strumento elettronico di pagamento, non ho difficoltà a tenere sotto controllo le spese, mi tengo gli scontrini. Poi in realtà c'è molta gente che invece anche in questa abitudine fa fatica ad abituarsi, ma insomma non è che siamo tutti quanti uguali, dobbiamo rispettare assolutamente tutti. E poi c'è tutto il mondo invece dei costi che devono sostenere i commercianti, perché il grande accusato è sempre quello, il mondo del commercio, che non vuole utilizzare lo strumento elettronico, non permette l'utilizzo dello strumento elettronico appunto ai consumatori, perché li si accusa, volete fare nero e quant'altro, invece sostengono dei costi a volte davvero inaccettabili, fra utilizzo del POS, gestione del POS e poi costi applicati, commissioni applicate alle singole transazioni. E quindi noi siamo anche dalla parte del commercio. 800 24 00 24, l'ultima riflessione la assegniamo a Dario da Milano, per poi andare al commento finale con Davide Stefanini di Visa Europe e Nicola Forte, nostro consulente tributario e fiscale. Dario, benvenuto. Buongiorno a tutti. Io ritengo che sia stato fatto un piccolo passo avanti quando andrebbe fatto un salto, perché a prescindere dal discorso dei costi, dalla difficoltà di gestione che abbiamo ora come ora, il motivo principale per cui a mio avviso non cambierà nulla è che l'utilizzo del contante permette ancora di fare il nero. Da cittadino trovo molto comodo l'utilizzo della moneta elettronica, ma da commerciante se io devo fare una transazione anche di soli 100 euro sono costretto a fare una ricevuta fiscale. Per cui fin quando non cambierà la tassazione per le piccole imprese, per gli artigiani, i commercianti in genere, secondo me gli stessi spingeranno ancora l'uso del contante. È un tema di carattere molto molto ampio. Dario, grazie per il suo contributo, anche lei ha riassunto di nuovo appunto i termini complessivi del problema. Allora, Davide Stefanini, le leggo per farle fare la conclusione finale anche sul tema delle nuove generazioni, sul tema della nuova generazione di pagamenti digitali. Cristiano ci racconta alla mail cuoredenari@radio24.it: ho attivato un lettore POS per carte di credito che funziona tramite tablet o smartphone. Zero spese, neanche per il lettore. Unica spesa lo smartphone, che hanno tutti, e il traffico internet. Spendo 4 euro al mese. Le spese sul transito scendono, più volumi vendo. Che ne pensa? Direi che va nella direzione che spiegavamo qualche minuto fa, quella di incentivare con meccanismi virtuosi questo meccanismo che in questo momento appare inceppato. Mm-hmm. Questo è un esempio di un'offerta, di quello che noi tecnicamente chiamiamo mobile POS, quindi un POS che è legato al dispositivo mobile, che è di nuova generazione, che abbassa i costi proprio perché le tecnologie applicate sono più moderne e che quindi incentiva l'esercente a questo punto a dotarsi di una soluzione moderna e a quanto pare meno costosa. E insomma, quindi stiamo andando verso questa direzione, forse in Italia ci vorranno ancora degli anni per una rivoluzione completa e radicale o quantomeno significativa, ma la strada è tracciata, mi pare di capire, Stefanini. Dobbiamo salutarci peraltro. Sì, noi dobbiamo sempre tenere presente che dobbiamo, come diceva anche giustamente lei, andare verso un'incentivazione. Le nuove commissioni sono un'incentivazione perché riducono i costi. Esatto. Queste nuove tecnologie, mobile POS, il contactless sono un'incentivazione. La protezione che i sistemi di pagamento danno sono un'incentivazione all'utilizzo. Questi sono gli strumenti che a nostro avviso dovrebbero essere massimizzati per ottenere il risultato che vogliamo. Grazie a Davide Stefanini per questo messaggio finale. Non riesco a sentire Nicola Forte, che saluto. Devo andare subito alla nostra rubrica finale. Dobbiamo lasciare da parte carte bancomat che ci fanno pensare allo shopping natalizio, e proprio al Natale noi andiamo a dedicarci come sempre in chiusura di trasmissione. Non pensiamo a compiere regali, ma alla magia della nostra favola di Natale. Ogni giorno fino al 24 dicembre nel corso del programma lo scrittore Andrea Vitali, accompagnato dalla band lombarda dei Surutumana, ci legge un breve brano della sua favola di Natale. I grandi non dicono mai la verità, uno per giorno, come un vero e proprio calendario dell'avvento. Ogni giorno un incipit per voi ascoltatori, che poi potete continuare scrivendo ogni giorno un pezzettino della nostra favola di Natale. Al contributo più interessante, che viene scelto dalla redazione, dallo stesso Andrea Vitali, arriva ogni giorno una copia del libro con la favola. Per vedere il podio di oggi andate sulla pagina dell'iniziativa che trovate sul sito di Radio 24. Adesso sentiamo come la favola invece procede. Nove vecchie macchie da lavare sul maglione, 10 ceci cuoci com'è buono il minestrone, 11 segreti che 11 riveleremo, 12 gli apostoli che apposta li contiamo. 11 grammi la sera seguente. Erano appunto le 11, l'orsa era appena passata per ruggire un saluto al babbo. Undici grammi, una sciocchezza. D'altronde era solo il primo giorno di dieta e di esercizio fisico sotto lo sguardo attento della renna Rudolf e non ci si potevano aspettare miracoli. Il babbo si era impegnato. Per tutto il giorno il silenzio che gravava sopra il Polo Nord si era riempito della voce della renna che aveva scandito i tempi della corsa del babbo e quelli degli esercizi defatiganti. Al momento del pranzo e della cena, per non essere tentato in alcuna maniera, Babbo Natale si era fatto chiudere in uno stanzino con davanti un piatto di stalagmiti, un cibo leggerissimo e talmente tenero che si scioglieva in bocca. Nonostante tutto, il risultato di tanta fatica era sconfortante. Non era finita perché il risultato era sconfortante. Non era finita perché non era finita? Continuate voi. Tra l'altro, mi stava incuriosendo il pranzo con il piatto di stalagmiti di Babbo Natale. Chissà quante calorie ha, lo dovremmo chiedere ai nostri nutrizionisti. Ne parlerò lunedì con Nicoletta. Intanto scrivete, continuate la nostra storia. Non dimenticate, i nuovi incipit vengono pubblicati sulla nostra pagina, sul sito, anche nei giorni di sabato e di domenica, quindi continuate a partecipare con i vostri contributi anche nel weekend. Intanto grazie a Marco Lombardo, Laura Vanossi e Carmelo Lauricella per l'assistenza per tutta la puntata di oggi. Noi abbiamo terminato, ci risentiamo lunedì. Buon fine settimana a tutti.